un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Con tanti galli che cantano, troppe galline rispondono. Poniamo fine a questo calvario. Ti giuro che è una delle ultime volte che ti faccio cantare in diretta, te lo giuro. So che ti diverti come un matto, però è una delle ultime volte. No, ma tu ti immagini che sono io alla Zanzara, ospite il signor Bini Smachi che fa cu-cu-cu-cu-cu. Beh, diciamo che l'ipotesi che Bini Smachi sia ospite alla Zanzara è piuttosto remota. Primo, perché non ce lo vogliamo noi. Secondo, perché non ci verrebbe lui. E chi te lo dice? Magari in un'altra vita. Il Bini Smachi dal volto umano. Siamo qui 800, sarebbe grandissimo comunque. 800 24 0024. Ma siamo riusciti a fare ben di peggio, per cui potremmo arrivare anche a Bini Smachi che canta Pippo Franco. Però l'audio di oggi, naturalmente c'è tutta la vicenda di Gheddafi, che pare che sia stato poi assassinato con un colpo alla testa, cioè era vivo fino all'ultimo, poi lo hanno assassinato. Insomma, se ne discuterà a lungo di come è morto Gheddafi. A parte la vicenda Gheddafi, dove c'è da registrare, insomma, il ritorno, direi in grande stile, del nostro amico Borghezio. Beh, insomma, si vede che è tornato in primo piano, no? È tornato a combattere? Un grande leader, un vero rivoluzionario non confondibile con i nuovi dirigenti libici portati al potere dalle baionette della NATO e dalle multinazionali del petrolio. No! È stata una morte gloriosa, onore delle armi al templare di Allah. Come il templare? È una cosa terribile! Anche se sono stato il primo e forse il solo a criticare il modo con cui è stato ossequiato in Italia recentemente, devo dire che è stata certamente una morte gloriosa e con le armi in pugno in mezzo ai suoi pochi fedeli che gli erano rimasti. Beh, non c'è dubbio che è morto combattendo. Però insomma, adesso addirittura una morte gloriosa, glorificare la morte di Gheddafi mi pare un po' eccessivo. Ma d'altra parte è Borghezio, insomma, lo sappiamo, lo conosciamo. Berlusconi invece ha commentato: come sai, sic transit gloria mundi, sic transit gloria mundi, tutto è effimero, tutto è provvisorio, insomma, traducetelo come volete, anzi vi invito a tradurlo: sic transit gloria mundi. Attenzione, però il matto in questo caso non si sa chi è. Uno degli audio del giorno è certamente quello di ieri sera, la mitica litigata tra Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, e Sallusti. Quando Sallusti dice: ha fatto bene la polizia a sparare a Giuliano. A Carlo Giuliani. Sentite. Chi ha fatto le violenze sabato durante il corteo e contro le persone che ha aggredito, contro le macchine che ha bruciato, tra cui una di un compagno di Rifondazione, ma è contro quel movimento che invece per poter crescere ha bisogno di poter crescere, non e nella allora violenza. Perché intesti le aule Carlo Giuliani? Ma per favore, Sallusti, ma lo capisci l'italiano? E ti ho capisco. Detto che quello era un corteo aggredito, noi siamo quello per fare delle manifestazioni, noi eravamo e siamo aveva per una fare delle manifestazioni pacifiche, e se tu avessi ascoltato lo studente ha fatto bene Sallusti, ha fatto bene, ma come si fa a dire cose? quello in sottofondo era Bernocchi. Non si capisce perché il signor Vinci dice: calmi, calmi, fermatevi. Ma che fermatevi? Scatenatevi. Ma come calmi? Ma continuate. Scatenatevi, scatenatevi. Poi ma c'è anche. Ma cosa gli ha detto? A un certo punto gli ha detto: Sallusti, vaffanculo. Si può isolare solo quel passaggio? Sì, vaffanculo, vai a cagare a un certo punto. Possiamo isolare solo quello? Si può? Isoleremo, non ti preoccupare. Bossi fa finta di fare la pace con Tosi. Lunedì, sono troppo buono, lo incontro lunedì. Tosi ha detto che lei era frainteso nella sua dichiarazione. Pensa che debba essere espulso Tosi dalla Lega. Ha invitato lunedì. Preparare con lui. Sono troppo buono, dice Bossi, però pare che Tosi sia in America, e non possa essere lì per. No, ma questa è una cosa vera. Poi un'altra cosa abbastanza comica, anche se io sono a favore delle lobby, insomma, certificate, chiare, no? Trasparenti. Bondi, credo ieri sera a 8:30, se non sbaglio. Sandrino. La Vitola è un semplice appassionato di politica. Senti. Non risulta che lui sia un faccendiere, francamente. Risulta che sia un giornalista e una persona appassionata di politica. Beh, no, non c'è nulla di più. Un giornalista non chiede le Maserati, non chiede. Ma questo è un fatto privato. Questo è un fatto privato. Io non la chiederei, ma è un fatto privato questo. Un giornalista chiede di nominare Tizio Caio capo della Guardia di Finanza. Ma no, ma questi. Queste sono cose che si dicono. Sono cose che si dicono. No, veramente che non corrispondono alla verità. Il cuore è già pronto a colpire finché ogni gallo canterà. Questo Bondi, non ridere, non ridere. È un uomo adorabile, Bondi. Non ridere. C'è molto altro da ascoltare. Però abbiamo come ospite, primo ospite della serata della Zanzara, l'onorevole Luigi Muro, Futuro e Libertà, da Procida, anzi da Roma, credo, comunque di Procida. Buonasera Muro, come sta? Bene, bene. Allora, Muro è passato a Futuro e Libertà, cioè è stato eletto con il PDL, nelle liste del PDL, poi a febbraio è passato a Futuro e Libertà, febbraio, dopo la fiducia del 14 dicembre. Muro, oggi lei ha dichiarato... Però io il 14 dicembre non era eletto, sì, certo, non era alla Camera. Però dopo, venendo lei dalla tradizione dell'Alleanza Nazionale, avendo un legame molto stretto con l'onorevole Bocchino, eccetera, eccetera, ha deciso di aderire al gruppo di Futuro e Libertà. Non solo per questo, ma... Vabbè, per tanti altri motivi, vabbè, certo. Vabbè. Comunque, di essere all'opposizione di Berlusconi. Chi è che è caduto, naturalmente? Parenzo? Chi è caduto? Parenzo, lo recuperiamo. No, lei è qui. Senta, Muro, allora, lei oggi ha detto al Fatto Quotidiano... che Verdini a un certo punto, mentre lei stava per annunciare di passare a Futuro e Libertà, le avrebbe detto: chiedimi 5 cose, sì. Dimmi 5 cose che desideri, dopodiché mettici il timbro e considerale fatte. Bene, ovviamente sì, era certo, voglio chiarirlo, che si riferivano sicuramente di cose politiche. Ah, cose politiche, cioè non le ha mai offerto del denaro? Assolutamente no, sarei disonesta del contrario. Cose politiche che cosa, scusi? A quel punto io non ho proprio messo in mezzo, ho risposto, io ho bisogno non di 5 cose, di 55, ma il problema mio è politico, ritengo che il PDL non sia il partito che avevamo creduto e quindi credo più giusto continuare la mia battaglia con un partito come Futuro e Libertà. Dunque lei parlerebbe di compravendita di parlamentari per quello che la riguarda. Parenzo, non hai sentito, ma Muro ha detto che le 5 cose che gli avrebbe offerto Verdini, chiedimi 5 cose, Berlusconi era d'accordo, adesso lo vedremo, insomma, chiedimi 5 cose che desideri, dopodiché mettici il timbro, erano cose politiche. Sì, erano anche cose... perché io credo che sia stato, non avendo un rapporto di conoscenza, credo che sia stato anche una approccio, no? Per vedere l'altra parte come rispondeva. Sì. Non essendo io recettivo, è evidente che non si è andati avanti. Non si è andati avanti. Senta, Muro, ma io le ho chiesto una cosa. Allora, no, si può parlare proprio di compravendita. E infatti questo le si può parlare per quello che la riguarda di compravendita di parlamentari. Io credo ci siano due tipi di compravendita. Una compravendita etica, politica, che si fa anche dando incarichi politici, no? E in quel caso possiamo parlare anche del mio caso di compravendita. Poi c'è una compravendita penalmente rilevante, che è la corruzione. Vabbè, quello, denaro, eccetera. E che ovviamente non mi ha riguardato, per onestà lo devo dire. Nessuno mi ha mai chiesto del denaro. Quindi io devo dire mi ha mai offerto del denaro. Devo dire la verità che ritengo che chi sceglie una strada politica solamente perché ha una contropartita politica di interesse, credo che si possa parlare di compravendita politica. Ma scusi, però in questo caso ti offrono un incarico, poi non è che vanno a indagare se sei convinto o non sei convinto. Uno dice, vabbè, comunque in cambio di questo. Io infatti ho detto che non ero convinto, io non ho chiesto di andare a parlare con Verdini, perché la mia scelta era chiara. Sì, mi sì. hanno chiesto di andare a parlare prima con Verdini e poi con Berlusconi. Ecco, Berlusconi che le ha detto? Berlusconi era il giorno della dichiarazione di guerra della Libia, quindi io ero un po' imbarazzato, non mi sembrava il caso. Dopodiché lui mi ha detto, ma perché, dove vai, il Fli non piglia manco l'1%, vieni con noi, puoi lavorare a Roma, eccetera, e poi alla fine, prima di salutarci... Vuoi lavorare a Roma, cioè? Lavorare a Roma, questo non ho approfondito per lo stesso motivo, ho detto, ma tu hai parlato con Verdini? Sì, benissimo, quello che ti dice Verdini per me sta tutto bene. No, ma scusi, ovviamente scusi. Già avevo deciso, sono andato via, sì. supportato dalla mia famiglia, dai miei figli, eccetera, e quindi sono andato tranquillamente. Parenzo vuole sapere, credo, che quando Berlusconi le ha detto puoi lavorare a Roma, cosa intendeva Berlusconi? Lo deve chiedere a Berlusconi, no? Perché se io avessi avuto un minimo voglia di trattare, avrei potuto trattare sia per le mie competenze professionali che politiche, ma io la trattativa non l'ho proprio iniziata. Cioè qualcuno le ha lasciato intendere che poteva essere facilitato, lei è avvocato, no? Nella sua professione di avvocato, qualcuno le ha lasciato intendere questo? Vabbè, a sentire quello che è accaduto, credo che sicuramente si poteva intendere. Quello che è accaduto cosa, scusi? In quei giorni, no? Presente che io sono passato nel momento in cui nessuno passava dal PDL a Futuro e Libertà e quindi, diciamo così, era abbastanza agevole, ripeto, entrare in una logica. Cioè lei ha avuto l'impressione che qualsiasi cosa avesse chiesto l'avrebbero accolta? Questo lo posso dire con assoluta certezza, però, sia dell'incontro con Verdini che con Berlusconi. Comunque, insomma, queste sono impressioni, naturalmente restano impressioni. Il fatto è che nessuno le ha offerto concretamente, mi pare di capire, né posti, perché lei non ha approfondito, né denaro però. Beh, di lavorare a Roma, sì, denaro quindi. Beh no, denaro no. Beh, indirettamente sì. No, che indirettamente? Io ho detto quello che è accaduto, poi ognuno può fare le sue considerazioni. Traffico, torniamo subito e parliamo invece della vicenda Gaspari, perché dopo c'è stato uno scambio, sembra abbastanza feroce, chiamiamolo così, di SMS con l'onorevole Gaspari, che anche, come sapete, è il presidente dei senatori del PDL. Berlusconi e Gheddafi. Berlusconi, avete sentito cosa ha detto, no? Sic, com'era, Parenzo, che me la sono già scordata? Sic transit gloria mundi. Mundi. Lei lo sa il latino, signor Muro? Io sono un diplomato all'Istituto Nautica e laureato in giurisprudenza, quindi non sono, ma però capisco il senso. Sì, il senso è quello che abbiamo detto. E Berlusconi, l'11 di giugno del 2009, diceva Gheddafi saggio amico, lo ricordate, no? Ricordate poi tutte le accoglienze, eccetera. Sentiamo. Io ho avuto modo di incontrare più volte il leader e di legarmi a lui da una vera e profonda amicizia. Al leader riconosco una grande saggezza e riconosco che tutto ciò che lui è venuto dicendomi nelle crisi internazionali che si sono verificate in questi 15 anni e in particolare le crisi del Corno d'Africa, alle crisi del Medio Il saggio Gheddafi che dà consigli a Berlusconi, 800 24 0024. Muro, allora, un giorno ero lì, mi ricordo, Berlusconi disse: chi ce lo dice a Bossi che andiamo in guerra adesso? Ah, così disse? Perché ero lì e ricevuto. Ah, già, è vero che bisognava decidere sulla missione, no? Quel giorno lì proprio. Ecco, appunto, ma all'epoca Berlusconi, cosa, che impressione aveva della guerra? È vero che poi lo trovavamo molto combattuto. Molto combattuto, diceva che praticamente era contrario e soprattutto aveva una forte resistenza da Bossi, insomma. Certo. Senta, ma poi con Gasparri ha avuto uno scambio di SMS, no? Assolutamente, questa è la cosa che più ma li ha conservati questi SMS? Assolutamente sì, altrimenti potrei rischiare. La querela, certo, la querela. Ma ce li ho conservati. Cioè, quando lei ha partecipato all'Assemblea Nazionale di Futuro e Libertà, dunque aderendo ufficiale? Glielo ho annunciato, gli ho scritto anche una lunga mail di giustificazione, perché ovviamente non sono riuscito a convincerlo di persona. E dopodiché lui mi ha tacciato di una sorta di tradimento, cioè cose abbastanza comuni e anche cosa c'era scritto nell'SMS, mi scusi? Beh, le parole testuali adesso non le ricordo, però mi ricordo, dice, non mi puoi fare questo è un tradimento, non devi fare questo. Ma anche se sei uno stronzo, tipo? No, stronzo no. Stronzo non no, detto, no, quello no, solo no. Bossi lo dice. Non lo so, fatti tuoi. E quindi praticamente poi ovviamente è passato un po' di tempo sì. e io incautamente, devo dire, a Pasqua gli ho scritto un messaggio di questo tenore, mi aspetto una rispostaccia, però al di là delle scelte politiche ti faccio gli auguri, eccetera, eccetera. Sì. Giorno di Pasqua, e lui mi ha risposto, insomma, un messaggio che io definisco terribile, nel senso tipo? Dice, altro che rispostaccia, un miserabile, altro che buona Pasqua, un miserabile non merita neanche una risposta, saranno le disgrazie che meriti, che certamente avrai, che ti faranno capire chi sei. Quel pure una buona pelotata. No, lo rilegga ancora, ce l'ha davanti? No, lo ricordo a memoria, guardi, lo ricordo allora, a memoria. Rileggiamolo bene, quel messaggio SMS del signor Gasparri all'onorevole Muro. Poi scusi, che c'entra Gasparri se sta al Senato? Io gli ho fatto gli auguri perché Gasparri con l'Alleanza Nazionale c'è una... Ah, ecco, so, perché... E quindi lui, diciamo, era colui il quale... tenga presente che a me hanno fatto di tutto per non farmi entrare alla Camera perché non avevano, diciamo così, molta fiducia nella mia, diciamo, nel mio posizionamento. No, ma rilegga quel messaggio, rilegga, che è una cosa incredibile. Allora, io gli ho fatto il messaggio dicendo: mi aspetto una rispostaccia, ma ti faccio gli auguri di buona Pasqua. E lui, dopo un'oretta, mi ha detto: una rispostaccia, punto interrogativo, un miserabile non merita neanche disprezzo. Punto. Saranno le disgrazie che meriti e che certamente avrai che ti faranno capire chi sei. Tu le hai augurato tutte le disgrazie possibili e immaginabili. Da buon napoletano, diciamo, ho fatto tutti gli scongiuri, diciamo, sia in automatico che indotti. Speriamo che vada tutto bene. Cioè, come che scongiuri ha fatto? Si è toccato, ha toccato ferro? Insomma, varie parti anatomiche, corni, eccetera. Ma non ha più avuto contatti con i dirigenti, diciamo, del PDL, eh? No, mi capita una cosa strana, che molti di loro nei corridoi della Camera mi salutano e mi danno pacche sulle spalle, in aula fanno finta di non conoscere. Sento una cosa, ma perché lei racconta un po' una pestata? Perché racconta queste cose adesso? Questo è curioso, cioè sono passati diversi mesi, sono accadute, diciamo, a marzo, aprile, eccetera. Io non sono un tipo che cerca, come dire, la ribalta, me l'hanno chiesto e l'ho raccontato, cioè non ho né da nasconderlo né da pubblicizzarlo. Non mi piace fare la politica su questo, però nel momento in cui me l'hanno chiesto io l'ho raccontato, non è che sono andato io a comunicarlo, avrei fatto nell'immediatezza, però l'ho fatto quando una giornalista me l'ha chiesto. Sì. Senta, ma lei crede al fatto che per esempio ad onorevole Di Biagio sia stato offerto €1 milione per passare al PDL? Di Biagio è una persona seria, però io all'epoca non ho elementi per valutarle, quindi se lo ha detto avrà degli elementi lui, io non ne ho elementi. Secondo lei oggi il suo voto quanto può valere? Il mio voto? Sì. Quanto può valere il suo voto? Quanto potrebbe ottenere il suo ritorno? Secondo lei una cifra? Se valesse a peso d'oro, io sono un po' ingrassato negli ultimi tempi, quindi potrebbe valere molto, diciamo così. No, oggettivamente, lei quanto potrebbe chiedere lei? Io potrei chiedere, una gita a Capri invece che a Procida. No, beh, adesso sta scherzando, però voglio dire oggi se uno vuole trattare un passaggio da Futura Libertà o comunque dall'opposizione vale? Ma lo deve chiedere a chi fa queste cose. Vabbè, ma lei sente parlare lì nei corridoi, lo sa quanto valgono queste cose, quanto vale una ricandidatura, sicuro, no? Ma guarda, l'unica cosa che secondo me non è sicura è la ricandidatura, perché no, secondo me non si sa al centrodestra quanti seggi prenderà. Ma secondo me Berlusconi la prossima volta porterà dentro, se si voto con questo sistema, la parentela massima entro il quarto grado, quindi tutti questi che sono passati li vedo proprio No, ma seriamente, se lei chiedesse tipo €1,5 milioni, secondo lei gliene darebbero o no? Secondo lei? Ma perché proprio €1,5 milioni? Penso visto? Di no. Perché di proprio no. Sta cifra? €1 milione, sì, €1 milione. Se no. Non lo so, penso di no comunque, non credo di meno, fare... meno. Valgo molto di più dal punto di vista umano, quindi non c'è prezzo. Va bene, grazie onorevole Muro, grazie. Futura Libertà. Grazie. Arrivederci. Però queste cose, vuol dire, secondo lei sono da codice penale? No, le cose secondo me sono da codice etico e da espulsione dalla politica. Vabbè, questo è un altro discorso, però non è che c'è da fare denunce, eccetera, compravendita. Se ci fosse stato necessità l'avrei fatta, ma la politica non si fa con le denunce. Grazie. Magari a sentire Taormina, magari da un consiglio, l'avvocato Taormina. No, ci proverò. Grazie. Dobbiamo chiudere. Intanto Berlusconi e Letta si legano al Quirinale per la vicenda di Banca Italia, dunque sta per uscire il nome proposto dal governo. Salice. Va bene, 800 24 0024, la zanzara riprende da qui, caro Parenzo. Bene, molto bene. Senti, senti cosa ha detto il signor Bocchino, Italo Bocchino. Mi portate intanto un prosecchino, grazie. Ma dove sei, scusa, col prosecchino? Come? Dove sei col prosecchino? Prosecchino, prosecchino con gli indignati, piazza di pietra. Ma che indignati? Mi sto indignando. Indignati di che? La rivoluzione. Io sono molto contento quando la gente va in piazza. Ma questo lo sapevo. Se... Prosecchino. D'altra parte, ho sentito dire, anzi, l'ha scritto l'ottimo Pietrangelo Buttafuoco l'altro giorno, che basta far parlare gli indignati, basta far parlare gli indignati per capire il motivo per cui sono precari. Poi, no, è bravo sto Buttafuoco. No, poi, voglio dire... è vero, è vero. Sono precari per modo di dire, alcuni eccetera, ma basta lasciarli parlare, basta, è una stronzata. Basta lasciarli parlare, si capisce tutto. Vabbè, basta lasciarli c'è? Parlare tutti in libertà. Solo hanno un linguaggio forbito, ma non come c'entra niente, non c'è, a parte noi non abbiamo per niente il linguaggio forbito, punto. Ma non è questo il punto, basta tu li lasci parlare e poi capisci tutto. Ma cosa capisci? Come questa è la mia, ormai la mia. Comunque se ti piace così, se ti piace il rancore che cresce nel paese, ti piace così, se sei contento tu quando ti fanno assediare casa. Ma che assediare bene, casa? Ti piace ma quale, così? Ma quale se assediare così? Casa? Senti Bocchino, senti comunque Bocchino. Comunque ti piace così, ma tiriti il paese così. Comunicato, Berlusconi somiglia a Gheddafi, la borsa ha perso il 3%, lo spread è a quota 400, i nostri titoli di Stato si vendono pagando il 6% di interessi, il governo italiano è escluso dal vertice di Francoforte per salvare l'euro e il governo non riesce a presentare il decreto sullo sviluppo. Mentre tutto affonda, Berlusconi continua ad aizzare le sue truppe dicendo che arriverà al 2013. Cambierà nome al partito e farà le riforme che ovviamente è sopra di 4 punti percentuali rispetto agli avversari. Più passa il tempo e più somiglia nel modo di fare al suo amico Gheddafi, che appena qualche settimana fa diceva che tutto andava bene e che la Libia era tutta dalla sua parte. Insomma, in sostanza, Berlusconi uguale a Gheddafi. Questo ha detto davanti al cadavere di Gheddafi il signor Italo Bocchino, i titoli del TG3. E vabbè, se ti piace così, se ti piace così, Bocchino, d'accordo. Se ti piace Bocchino, se ti piace Bocchino. Certo che mi piace così. Titoli. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Muammar Gheddafi ucciso dai ribelli a Sirte, prima ferito poi giustiziato, una buca il suo ultimo nascondiglio, non sparate il suo ultimo grido. Finisce nel sangue il regime del colonnello, da terrorista a partner nell'Occidente, la primavera araba spassa via le illusioni di mortalità dei vecchi dittatori. Napolitano, si chiude una pagina tragica, Berlusconi guerra finita, sic transit gloria mundi, l'opposizione sia prudente, chi ha sempre ossequiato il Rais. La difficile scelta per Banca Italia, Bossi assicura stasera il nome, Berlusconi al voto nel 2013, poi annuncia basta PDL, questa sigla non funziona. Incertezza su un accordo europeo contro la crisi, voci di un rinvio del vertice di domenica, poi smentite ma le borse affondano e lo spread è il record. Ragazzi socialmente pericolosi che hanno usato un corteo pacifico, gravi gli indizi contro di loro, il GIP convalida 11 arresti per gli scontri di Roma. Roma in ginocchio per un nubifragio, un uomo annega in un seminterrato, le strade come fiumi, il sindaco chiede lo stato di calamità e la Lega attacca la capitale. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci sono colpi di quelli stofanti di la mille topi. Io farei di sentire Sallusti perché voglio chiedere, cazzo, voglio dirti che io sono dalla parte di Sallusti. No, io sono dalla parte di Sallusti. Sì, perché ti spiego perché. E appunto, ti spiego perché. Perché quando. No, no, è bellissimo quello che dico, è meraviglioso. Come le tasse di Padoaschioppa. Ti dico perché. Ti dico. Ma chi se ne frega? Ma che c'entra che c'è un morto? Per carità. Cattivo gusto, no, ma non è questo il punto. Bisogno. No, no, no, non no. Hai bisogno. Io ho detto di chi se ne frega, non perché c'è il morto, non perché c'è il morto. Dicevo chi se ne frega di avere, sì, come dire, delle prudenze perché c'è stato un morto nel 2001. No, io ti sto capito. Dicendo una cosa. Allora, di fronte alla. Perché dico che ha ragione Sallusti? Perché se uno è circondato da un nucleo di persone che vogliono distruggerlo, vogliono bastonarlo, vogliono ucciderlo, perché di questo vabbè. Si tratta. Vabbè. A un certo punto ha anche il diritto di sparare. Ma o no? Ma ci voleva. Ma posso dire che è un discorso veramente del cazzo? Lo dico con perché rispetto. È un discorso ma del cazzo? Ma che discorso è? C'è un morto. Sicuramente quello non era un orsolino, non era Papa Luciani. Quello che ha tirato le decisioni. Qualcuno pensa che sia un eroe. Non invece, era Papa Luciani, va bene? Carlo Giuliani non era Papa Luciani. Siamo d'accordo. Questo però nessuno l'ha mai sostenuto. Non era Papa Luciani, signore, che con un estintore stava attaccando una camionetta della polizia insieme ad altre persone. Dei carabinieri. Quindi. No, non era Papa Luciani. Ci ho detto, siccome c'è il morto di mezzo e voglio dire c'è stato un processo, ma che cos'è sto buonismo, che... questo buonismo, c'è buonismo, un morto di mezzo, ma che vuol dire? Ma è normale che se c'è una battaglia ci può scappare il morto? Il direttore Saluzzi, che ultimamente fa un giornale che sembra un organo della questura, il questore Sandro Saluzzi, adesso scova pure i criminali. Mi hanno rubato un orologio, appello a Sallusti, mi hanno rubato un orologio di plastica a Piazza di Pietra. Può per cortesia individuare il colpevole Sallusti dalle pagine del giornale? Del giornale? Me lo puoi individuare? Mi hanno rubato oggi un orologio. Ma che c'entra? Che c'entra? No, ma divento, ogni giorno. E adesso scoviamone un altro, pubblica le foto. Ma che cos'è? È una questura. Campagna giornalistica. Una bella campagna giornalistica, che però critico sul piano formale. Vabbè, sul piano formale. Formale. Fammi e sentire. Questa roba, questa battuta su Giuliani è di cattivo gusto perché c'è di mezzo il morto. È chiaro, sentiamo, che non ha sentiamo. Colpe placanica. Chi ha fatto le violenze sabato durante il corteo e contro le persone che ha aggredito, contro le macchine che ha bruciato, tra cui una di un compagno di Rifondazione, ma è contro quel movimento che invece per poter crescere ha bisogno di poter crescere, non allora nella violenza. Perché intesti le aule a Carlo Giuliani? Ma per favore, Sallusti, ma lo capisci l'italiano? E ti ho capisco. Detto che quello era un corteo aggredito, noi siamo quello per fare delle manifestazioni, noi eravamo e siamo aveva per fare delle manifestazioni pacifiche, e se tu avessi ascoltato. Sparato, e se tu avessi ascoltato lo studente, ha fatto bene, ha fatto bene, Sallusti, ha detto che ha fatto bene, quello è un assassino, quello è un mandato, signori, sei un teppista, Sallusti, ha fatto bene, ma Sallusti, ma va a cagare, va, tu semini odio, ma come si fa a dire cose signori? Troppe galline rispondono. Vabbè, poi Bernocchi contro Sallusti. Bernocchi l'avete sentito proprio alla fine di questa prima discussione, no? Poi hanno intavolato una guerra termonucleare, senti. No, io credo che Di Pietro come Bernocchi si stanno comportando esattamente come quei cattivi maestri, ma con un aggravante in più che ma fanno i furbi. Ma sei più cattivo maestro di te. Perché da quel giornale attacchi tutte le cose che Bernocchi, cercano di cambiare in positivo. Tu sei proprio non solo senza un cattivo maestro, ma non sei manco vorrei maestro. Vorrei chiederle la stessa cortesia. Lei ha perché parlato, evidente, senza interrompere. E mi date il cattivo maestro. Ma vabbè, lei lo di peggio. Allora, di le stupidaggini che perché, ti sono, ma limitati a quello, perché se mi dici che sono cattivo maestro ti devo rispondere che tu sei cattivo, ma sono costretto maestro. Io dover interrompere lei, se non lascia finire. Ancora, voglio sentire Bernocchi. Che cos'è poi Bernocchi? Non lo so mai. Che cos'è? Cobas. Dei Cobas. Dei Cobas. Sì, una cosa c'è sempre una cosa i Cobas. Uno può essere rappresentante a vita dei Cobas. Queste figure non esistono in altri paesi. Cioè, noi riconosciamo questo qua perché dei Cobas. Ma che vuol dire? Questo è un po' vero. Cioè, delle figure mestiere, che si perpetuano. È diventato un mestiere, è dei Cobas. Vabbè, d'accordo, sì, è dei Cobas. Comunque, sentiamo. Mi sembra che, come dire, i tuoi ospiti Bernacchi e Ferrero dovrebbero gettare la maschera, perché difendere accusare Sallusti, i violenti, prendere le distanze questa storia della maschera, ma tu a parte che la maschera ma tua che prendere prendere le distanze dai violenti. Ma noi ci hanno sfasciato una manifestazione a Sallusti, a te non te ne frega niente, anzi ci vai no no grosso. Ma io lo so, quindi se il conduttore permette di parlare, però non mi venite a dire di gettare la maschera, a parte che io mi presento bene e tu te presenti male questa quindi. Sera. Vabbè, poi altro, restate con noi. Dove andiamo? Andiamo. Francesca, provincia di Modena. Si lotta. Buonasera. Pronto, buonasera, signor Cruciani, dottor Cruciani. Dica, no, dottore. Ascolti, non mi interrompa perché dopo lei mi mette l'ansia, Ho capito, signora. Glielo devo dire proprio delle cose che mi stanno a cuore. Sì. Dunque, io ho due nipoti. Sì. Io ascolto sempre, mi piacevate tanto. Sì. Però l'altra sera i miei nipoti mi hanno fatto un'osservazione, mi hanno detto, madonna... Beh, ma ti pare che puoi ascoltare una trasmissione dove dicono solo parolacce? Ma non diciamo solo parolacce, signore. Quanti anni hanno? Quanti anni hanno i suoi nipoti? Abbiamo detto la parola Sallusti, non mi pare una parolaccia. Sia lei che Parenzo dicono abbiamo... troppe parolacce. Va bene, ma abbiamo detto la parola Sallusti, non è una parolaccia. Non se ne può più. sembrate due scaricatori di porcio. Va bene, allora, signora Francesca. Allora io dico che è possibile che dei dottori che si abbassino a parlare in questo modo? Noi che cosa, con quale coraggio sgridiamo i nostri nipoti quando li sentiamo parlare un po' così e colà? Ma buono, quanti, anni ha, quanti anni hanno i suoi nipoti? Allora, uno ha 12 anni e uno ne ha 6. Beh, però sono già, sono lì che studiano, che si come si dice, stanno attenti ai linguaggi. Tanto fra poco qualche parolina la diranno anche loro, non dico parolaccio, qualche parolina la diranno anche loro. Volevo chiedere una cosa alla gente. Purtroppo che è così, però non è il caso che ne sentono continuamente. Vabbè, continuamente, adesso non esageri. Dottori, siete dei dottori, siete dei... Ma che dottori? Quali dottori? Operatori dell'informazione. Signora, volevo chiedere una curiosità, posso? Gentile ascoltatrice? Sì, un attimo solo, dopo la borsa, Siamo qui, 19:35, 800 24 0024, il numero di telefono per chiamarci in diretta. Allora, eravamo con la signora Francesca, la provincia di Modena. Io però le voglio rispondere in maniera molto sincera, cara Francesca. Poche e mirate, come lei dice, parolacce, che per me poi non sono parolacce, poi si può giudicare, si possono avere opinioni diverse al riguardo, fanno parte della vita, della vita di tutti i giorni. Io sono sicura che lei le ha dette qualche volta. E questa No, a casa nostra non succede mai. Ho capito, ma questa è la realtà. Per cui questo... La realtà purtroppo è brutta, perché non è il caso che se si sentono queste parole. Ma noi ci comportiamo come nella... in una radio, in televisione, perché poi noi, di fronte ai nostri figli e ai nostri nipoti, stiamo facendo una guerra impari, perché voi avete degli strumenti così grossi, così grandi, e non li usate per il bene. Ma io non li voglio usare per il bene, io voglio semplicemente parlare chiaro, e qualche volta usare delle parole che per me non sono parolacce significa parlare chiaro. E poi guardi, le parolacce le dicono altrove, qui non le diciamo le vere e proprie parolacce. Comunque la ringrazio moltissimo e l'abbraccio, cara Francesca. Beh, c'era Parenzo che mi doveva chiedere una cosa. Vabbè, adesso Parenzo che vuoi? Sì, no, volevo sapere cosa pensano i suoi nipoti della vicenda Verdini, della un attimo solo, perché c'entra Verdini adesso? No, volevo sapere, siccome parlava di parolaccia, i nipoti che seguono la Zanzara, se hanno un'idea sulla vicenda Verdini, la banca di credito cooperativo. Ma che c'entra Verdini con la cosa? È una storia pazzesca. Renzo, lei sfonda una porta già aperta. È impazzito, Parenzo. Perché tutti i politici, specialmente da quella parte, la fanno proprio schifo. Vabbè, ma che c'entra adesso? Sei d'accordo con questa demagogia, Parenzo? Addio, da quattro soldi. Come su demagogia? Da quattro soldi, dai, demagogia da quattro soldi. Sulla vicenda della ma che c'entra? Cosa c'entra con le parolacce? Dici delle cose inaudite, stai dicendo. Cioè, stai dicendo delle cose che non c'entrano nulla. Sic transit gloria mundi. Vabbè, poi mette sempre in mezzo Verdini. Perché metti sempre in mezzo Verdini? No, cioè, voglio bene, in ogni cosa metti in mezzo Verdini. No, è Verdini perché mi è simpatico. Francesca, Verdini, grazie. Luigi da Taranto. L'ultima cosa, mi dica, Francesca. La più importante, quando sento dire anche che i giovani non hanno voglia, non c'è lavoro perché non hanno voglia di lavorare, vi vorrei informare che io genero, che facevo anche 12-13 ore al giorno. Brava. Vedi? Brava. Adesso l'hanno messo a un giorno sì e un giorno no. Guardi, io a questa storia che non c'è lavoro non ci ho mai creduto fino in fondo, Francesca. Lasci perdere, se uno si vuole fare il mazzo se lo fa, non è che va a protestare per strada. Grazie. Luigi da Taranto, buonasera. Signor Cusani, combattere, buonasera. Com'è che il motto di Steve Jobs, altro che chiacchiere, altro che aspettare l'assistenza e il lavoro dall'alto? Com'è che diceva Steve Jobs? Dillo tu, Parenzo. Affamati e folli. Bravo, con esatto. Una piccola differenza. Che ma stai zitto, dai, sono... su. No, perché Steve Jobs in Italia non sarebbe potuto esistere. Oddio, mi sono ancora questa polemica. No, ma quale polemica? Non esiste, perché si rubano tutto, lo capisci o no? Rubano il nostro futuro. Bene, sempre la chiacchiera, sempre la lamentela, il vittimismo. Luigi, dica. Signor Cusani, buonasera. Credevo di aver sentito male, ma adesso Parenzo me l'ha confermato. Se il vostro ospite ha fatto il nautico, voi che scuola avete fatto? Io ho fatto il liceo classico, si figura in po', cioè, mi sono dimenticato di tutto. Allora, io non vorrei sbagliarmi, signor Cusciani, ma è sic transeat gloria mundi. Sì, allora. O sbaglio. Voi avete detto per tre volte sic transit gloria mundi. Questo è quello che ha detto Berlusconi, però è sic transit gloria. Allora Berlusconi ha detto sic transit gloria mundi, lei dice che ha sbagliato il latino? Parenzo l'ha ripetuto due volte, pure Berlusconi l'ha detto due volte. Ma Berlusconi naturalmente avrebbe fatto, questo è il commento che avrebbe fatto, riportato da altri, non abbiamo l'audio dell'originale. Però voi l'avete ripetuto due volte in diretta. Cosa vuole che le dica? Come si dice invece? Ci faccia? Assolutamente, era una puntualizzazione. No, ma lei fa bene, ma come la, la frase? Sic transit gloria mundi. Come si dice? No, sic transit gloria mundi? Sì. Sic transit, vabbè, sarà sic transit gloria mundi. Il significato non cambia. In realtà si può dire in entrambi i modi, perché io poi ho cercato il significato di sic transit gloria mundi e è proprio detto così, sic transit gloria mundi, così è riportato ovunque, Vabbè, caro professore, caro professore. No, per carità. Caro per professore, carità. Caro professore. Eccoci qua. Grazie allora, grazie. È con noi Maurizio Gasparri, capo del senatore del PDL. Buonasera. Buonasera, buonasera. Come sta poi, senatore? Senti col latino che è pericoloso. È pericolosissimo il latino, è pericolosissimo. Mamma mia, mondi, meglio non rischiare. Ma scusi, lei questa frase di Berlusconi come la interpreta? Quale frase? Quella su Gheddafi, sic transit gloria mundi, avrebbe commentato Berlusconi. Ora la guerra. No, non so neanche perché ero impegnato in varie riunioni, quindi non ho seguito l'ultima notizia. Non ha seguito nulla. Beh, è una sorta, come possiamo dire, di frase di fronte alla morte. È un giudizio sospeso perché si usa questa frase sia in casi elogiativi, sia in casi critici, sia in casi di presa. D'atto. Cioè dice il mondo, le cose del mondo sono effimere, insomma possono, no? Cioè. Diciamo che Davide è stato per 40 anni protagonista sulla scena internazionale, spesso nel male, ma anche sopravvivendo agli attacchi, lei non so quanti anni ha, ma negli anni 80 Reagan cercò di eliminarlo con i bombardamenti e riuscì a sopravvivere. Ma ha fatto una morte eroica, secondo lei? Ha fatto una morte eroica lì? Non ho avuto modo di seguire i dettagli dell'epilogo. Ma però come? Credo lo sa che... com'è morto, no? No, non lo so com'è morto, perché ripeto, ho saputo l'inizio della morte, ho partecipato a varie riunioni perché ne occupo delle mie incombenze al Senato e non ho avuto ancora modo di... Beh, è una cosa importante la morte di Gheddafi, comunque. Sì, certo, la morte, però le ripeto, i dettagli sono da una notizia. E probabilmente, generalmente, quando ci sono queste rivoluzioni, le morti del capo nemico sono eventi inevitabili, tuttavia la democrazia occidentale non prevede questo tipo di epilogo, un giudizio, un processo, è un tema ricorrente. Dunque sarebbe stato meglio come dire un processo eccetera e non ammazzarlo? Beh, scusi, perché noi siamo in un paese che non ammette la pena di morte, in Occidente non c'è questo tipo di prassi, nel caso Saddam Hussein, che è uno degli ultimi casi che io posso ricordare, c'era stato comunque un giudizio praticato in un contesto, come dire, processo un po' sommario, ma comunque c'era stato. Io credo che la democrazia occidentale preveda anche nei confronti del peggiore nemico un trattamento conforme alla nostra cittadinanza. Dunque sarebbe stato meglio non vedere quelle scene oggi che abbiamo visto. Lei può andare su internet e può vedere la foto di Gheddafi. La vedrò adesso sicuramente. La foto di Gheddafi morto, pare che sia stato. Quella l'ho vista. Pare che sia stato addirittura giustiziato, cioè catturato vivo e poi giustiziato con un colpo di pistola. Questo noi non è che ci si adatta ai livelli di condotta del tuo nemico, chi ha un livello di maggiore maturità democratica pratica la sua democrazia anche nei confronti del nemico. Dunque un'uccisione è una barbarie, lei dice, una barbarie. Le faccio un esempio di attualità italiana. Abbiamo visto tutte l'immagine sabato degli scontri a Roma, c'era un tizio che tirava gli estintori alle forze dell'ordine. Che cosa avrebbe detto lei se le forze dell'ordine avessero tirato degli estintori ai manifestanti? Non è che ci si adegua al comportamento di chi ha una condotta illegale o selvaggia o dittatoriale, se si è una democrazia avanzata. Quindi casomai la polizia quello lo ferma, anche casomai in maniera rude, ma in maniera adeguata alla propria civiltà. Così l'Occidente, se fosse ripreso da noi, avrebbe catturato Gheddafi, gli avrebbe contestato le colpe. Che però un po' l'Occidente c'entrava, perché ci sono stati raid della NATO, c'eravamo anche noi, eccetera. Sì, però non credo che l'abbiano ucciso dei soldati di qualche paese occidentale, voglio dire. Poi l'Occidente fa un uso legittimo della forza nel quadro delle deliberazioni della NATO, dell'ONU, delle organizzazioni internazionali. Si seguono delle regole, anche nella nostra Costituzione c'è scritto che l'Italia, sotto legge delle organizzazioni internazionali, può partecipare partecipare a operazioni tese a evitare il massacro di bombe. Senta, senatore, senatore Gasparri, ma l'Italia non è passata un po' troppo velocemente in questi mesi dalla, come dire, dal cosiddetto baciamano a Gheddafi, dall'accoglienza trionfale in Italia all'adesione alla guerra, certo con travaglio eccetera, con discussioni, con la posizione della Lega eccetera eccetera, però oggi c'è una esaltazione della morte del dittatore, qualche mese fa insomma non era così. Guardi, l'Italia ha avuto sempre un rapporto complesso con la Libia, lo dobbiamo mettere nel corso della storia, dai tempi dell'antica Roma ai giorni nostri. La Libia poi a un certo punto c'è stata una guerra coloniale nel 1911, che è 100 anni fa, poi dopo la fine della guerra la Libia, come era suo diritto, è diventato un paese libero, poi è arrivato al potere Gheddafi e ha cacciato in maniera inaccettabile gli italiani, che però lui diceva erano dei colonizzatori e quindi dal suo punto di vista erano dei nemici. Noi ritenevamo e riteniamo, almeno io ritengo personalmente, che fossero persone che meritavano rispetto. Sì, ma il rapporto di Berlusconi con Gheddafi non è stato troppo ossequioso? No, non è stato troppo ossequioso, perché con Gheddafi è stato un rapporto conflittuale. Poi molti paesi occidentali hanno puntato agli approvvigionamenti energetici, a stabilire un dialogo, non è mica stata solo l'Italia. Con Gheddafi c'era il Gheddafi di Lockerbie, che fu un attentato a un aereo di cui fu considerato responsabile la Libia. Poi tutti i paesi hanno cambiato i loro rapporti e hanno cominciato a dialogare. L'Italia, che è il paese confinante, perché le ho fatto la premessa storica? Perché la interazione tra l'Italia e la Libia è una roba un po' antica, a un certo punto ha posto fine a quella campagna di odio che anche Gheddafi aveva animato, soprattutto Gheddafi contro gli italiani. La giornata dell'odio, che veniva celebrata tutti gli anni in Libia, fu trasformata in una giornata di amicizia, e questo ritengo che sia stato un fatto positivo. Poi nel mondo ci sono molti che gestiscono senza democrazia il potere nei loro paesi, perfino la Cina è un paese non democratico, eppure ogni giorno partono delegazioni di imprenditori da ogni parte del mondo per commerciare e intraprendere in Cina. Ma lei mi sa dire l'ultima data di elezioni libere in Cina? Scusi un attimo Gasparri, no, ma sulla Cina possiamo anche essere d'accordo, ma insomma sono situazioni molto diverse. Però... No, non sono diverse. In Cina ci sono i lager, in Cina non c'è la democrazia. Ho capito, allora dovremmo fare la guerra anche alla Cina, secondo lei dovremmo fare la guerra anche alla Cina? Veda, questo lo dice lei, io sto dicendo che nel mondo spesso i paesi democratici, come l'Italia, hanno rapporti con le dittature, rapporti con paesi non democratici, e ce ne sono tanti nel mondo, non in Europa per fortuna. Ma lei è contento della morte? Lei della morte di Gheddafi è contento? No, ma non si può essere mai contenti della morte di nessuno. Sono contento se la Libia vivrà una stagione di libertà e di democrazia. Ma quelli che vengono poi adesso, le persone, poi si va, dice sono contento che è morto uno, io sono anche un cattolico, quindi credo che sarebbe stato giusto giudicarlo in un tribunale, i dettami della Corte Internazionale. Poi credo che quando ci sono rivoluzioni rivolte, è come accadde a Ceausescu in Romania, come è accaduto in altri casi, a volte, o come è accaduto a Mussolini nel 45, a volte poi quando crollano dei regimi e ci sono rivolte, la morte. Dunque è una fine da piazzare Loreto, questa qua, diciamo in pratica. Guardi, come l'ho detto prima, non ho visto le immagini dettagliate, ma lei mi dice che è stata una situazione, ho visto l'immagine del volto di Gheddafi morto, non credo che sarà stato ucciso dai rivoltosi, e quindi con un epilogo le ho fatto degli esempi della storia. No? Anche Ceausescu, che io non è una persona che abbia mai admirato, fu ucciso in Romania. In maniera un po' barbara, insomma. Quindi voglio dire, la democrazia di cui noi siamo vestiliferi e convinti sostenitori prevede un epilogo diverso. Allora, c'è un altro discorso, 800 24 00 24, caro senatore Gasparri, si discute intorno, a ragione Sallusti ieri sera a Matrix. Sallusti a un certo punto ha detto: beh, hanno fatto bene a sparare a Giuliani, no? Perché era circondato, stavano tirando gli estintori, la camionetta dei carabinieri era circondata, insomma alla fine ha fatto bene. Ci sono state grandi polemiche. Anche lei pensa che in alcuni casi, quando una camionetta dei carabinieri è circondata, sia legittimo sparare? In alcuni momenti può essere inevitabile, non direi ha fatto bene, perché anche lì se poi muore una persona non è che uno si mette a gioire. Dico che a volte è inevitabile. La legittima difesa, se uno tenta di uccidere lei Lei lo uccide per non farsi uccidere, riesce a dimostrare che ha agito per legittima difesa. Il codice italiano prevede questo, poi auguro a lei. Dunque, in alcuni casi, nel caso di Giuliani, era inevitabile che quel carabiniere sparasse, diciamo. Ci sono stati dei giudizi che hanno considerato quel comportamento inevitabile. Quindi rientrato nella legittima difesa, perché se quello poteva essere ucciso, ha reagito al pericolo di essere ucciso. Scusi, però io ho visto a Roma sabato. Viviamo in una democrazia, poi c'è stato un giudizio sul comportamento Però ho visto il comportamento di Placani che è stato ritenuto conforme alla legge. Senatore Gasparri, io però sabato ho visto scene simili, cioè camionette dei carabinieri circondate, eccetera. Non si doveva usare qualcosa anche lì, non dico sparare, eccetera. Ma guarda, io sono contento che non sia morto nessuno, quindi è bene così. Mi auguro però che non si ripetano scene del genere e la freddezza di quei carabinieri che hanno arretrato. Uno è stato ferito gravemente e ha dovuto abbandonare il suo veicolo. Cioè, lei vorrebbe che i carabinieri non arretrassero, insomma. Scusi, quando c'è una violenza... No, ma anch'io sono d'accordo con lei. Quando una persona per bene... Se adesso sto in una piazza, le sto parlando una piazza, se arriva uno e si mette a incendiare i negozi che sono in questa piazza, è giusto che intervengano le forze dell'ordine e lo blocchino. Se poi questo determina eventi drammatici, tutti ne siamo rattristati. Ma la causa di questi rischi è dovuta a chi si comporta in modo violento. Dunque, i carabinieri e la scena brutta... devono dosare la forza con cui tutelare la legalità. Però certo non è che noi possiamo pensare che tutte le volte lo Stato vedrà arretrare le forze dell'ordine, che lì hanno agito con senso di responsabilità e cautela, poi alcuni li hanno persino criticati. Quando ci sono reazioni che possono avere un epilogo tragico, tutti condannano, molti condannano le forze dell'ordine. Quando agiscono con maggiore cautela si dice ma potevano fare di più. È molto facile parlare fuori dagli eventi, è molto difficile sapersi regolare quando sta in mezzo a migliaia di scalmanati che agiscono, come abbiamo visto, hanno agito alcuni a Roma. Senta Gasparri, Parenzo, vogliamo chiedere se anche lui, perché nei giorni scorsi il Fatto ha scritto delle cose sul passato di Gasparri. Ha scritto niente sul passato di Gasparri. No, hanno scritto. Non ha letto l'articolo. No, come non ha letto l'articolo? No, hanno pubblicato una fotografia. Una foto. Volevo chiedere un'altra cosa, Gasparri. Non le ho fatto la domanda. Aspetti un attimo. Hanno pubblicato una fotografia in cui lei era all'università. Insomma, punto e basta. Ma fare un'assemblea io le mando. No, ma infatti. Ne mando mille di quelle fotografie. Ma lo so. Ma non dal 1971. Gasparri, aspetti un attimo. E ho partecipato a migliaia di assemblee. Sì, ma lo so benissimo, non sto contestando nulla, sto dicendo semplicemente una cosa. Lei ha mai tirato una pietra in un corteo, durante un corteo? No, non ho mai tirato una pietra in un corteo. Mai fatto botte? Non sono come D'Alema che ha tirato le molotov. Non ho tirato molotov, non ho maneggiato molotov e non ho tirato pietre. Mai fatto botte? Ho subito molte aggressioni. Sì. Io ero in una scuola a Roma, il Tasso, dal 69 al 74, che era prevalentemente... Mai fatto botte? Mai colpito qualcun altro? Sono stato sempre colpito perché mi sono sempre trovato in contesti in cui gli altri erano più numerosi e quindi sono sempre stato soccombente di fronte alla violenza di questo liceo, il Tasso. Cioè, tra lei e Alemanno chi era più diciamo il cuore di leone? Chi era quello che si faceva avanti? No, che era in prima linea? Di cuore di leone. Io sono stato un super cuore di leone perché ho resistito 5 anni in una scuola dove sono stato discriminato, aggredito e perseguitato sistematicamente. Non mi sono arreso, sono rimasto in quella scuola. Insomma, non ha mai menato in vita sua. In vita sua non ha mai menato. No, ho sempre preso un sacco di botte. Un sacco di botte. Perché ero in contesti ostili. Casomai c'è stato in un altro contesto, la storia in un'altra. Non lo so, la mia storia è stata questa. No, per carità. La mia militanza politica, io sono sempre stato uno che si è occupato di contenuti, di giornalismo, di cultura. E quindi c'erano i servizi d'ordine, c'erano quelli che avevano anche una funzione di prima linea. Io non ho mai fatto parte di questi gruppi perché forse non avevo il fisico. Se casomai ero più alto, ero qualcuno robusto. Diceva che lei, che qualcuno diceva che lei, com'era Parenzo, sta storia? No, che dicevo che Alemanno era uno che si buttava insomma nell'agone e lei stava sempre un po' dietro, forse il signor Tahiti di Cuddia, non so neanche chi sia. Io stavo nella scuola, le ripeto, a Roma, il liceo Tasso, tu comunista, che è stata la più politicizzata, e sa chi c'era a scuola con me? Antonio Tajani, attuale vicepresidente dell'Unione Europea, che a un certo punto dovette cambiare scuola per le continue aggressioni che subiva. Io invece ho resistito, quindi è vero il contrario di quello che diceva Parenzo. Io io sono uno resistente e combattivo, perché ho avuto un'esperienza giovanile così aspra e così ostile. Ma neanche un pugno allora nessuno ha mai dato. Neanche un pugno. No, un bel pugno negli anni 70. No, purtroppo, ripeto, erano talmente, c'era un rapporto di 101, per cui non c'era nemmeno la possibilità, se mi avessero dato la possibilità qualcuno gliel'avrebbe restituito i tanti pugni che mi hanno dato, hanno tentato di darmi. Beh, le abbiamo dato una notizia in diretta, Gasparri. Dunque si è conclusa questa telenovela della Banca d'Italia con la nomina di un interno che però non è Saccomanni, come ha sentito dalla voce prima di Sebastiano Barisoni, una notizia appena arrivata. Allora, Gasparri, che cos'è che ci stava dicendo Parenzo, che in realtà le ha sempre prese? No, io ero contento, ostile, voglio dire. Per cui questa è la storia, insomma, diciamo. Però sono stato forgiato alla resistenza politica proprio perché il contesto era ostile. Difatti sono tuttora molto deciso, combattivo, determinato, perché non mi potrebbe capitare nulla di peggio di quanto mi è successo. Possiamo dire in sostanza, Gasparri, due punti, lotto come un leone, possiamo dire così? No? Un attimo solo, Gasparri, le dico quello che ha sostenuto Bocchino oggi, che in sostanza Berlusconi si comporta come Gheddafi. Si comporta come Gheddafi perché fa finta che non succeda nulla. Guardi, perché fino a... La mia precedente e lunga amicizia nei confronti di Bocchino mi induce a non commentare né le sue frasi né le sue compagnie. Le sue compagnie, che sarebbero compagnie, cioè? Quelle varie, non le commento. Politiche, umane, quelle politico, che sono. Perché sono disdicevoli queste compagnie, non credo. No, guarda, io sono stato anche testimone di nozze di Bocchino, si è anche separato, era amico della famiglia, quindi non commento mai quello che lui dice, e quindi non intendo commentarlo neanche ora. Allora, però io le faccio commentare dopo la pubblicità quello che ci ha detto questa sera l'onorevole Muro. L'onorevole Luigi Muro di Futura Libertà, che ha tenuto dei suoi messaggi che lei avrebbe mandato all'onorevole Muro nel momento in cui Muro è passato sostanzialmente a Futuro e Libertà. Siccome sono dei messaggi piuttosto feroci dal punto di vista, come dire, anche umano, vorrei che lei li commentasse. Parli del nuovo governatore di Banca Italia, ma comunque è una notizia importante da dare, per carità. No, ma insomma, Ignazio Visco, chi lo conosce? Naturalmente lo conoscono gli addetti ai lavori, certo non il grandissimo pubblico, è il nuovo governatore di Banca Italia, era il vice, importante che era il vice direttore, soprattutto perché c'era questa telenovela politica, questi scontri politici, no? E che dirà Bossi, visto che il signor Visco è di Napoli? Fino ad oggi in realtà Bossi diceva: io faccio sempre il tifo per Grilli perché è di Milano, con una curiosa, ecco, insomma, motivazione. Che è una motivazione economica piuttosto curiosa. Una motivazione non c'è dubbio. Allora, vogliamo far sentire che ne pensa Gasparri di questa Banca d'Italia dopo. Voglio far sentire a Gasparri quello che ha detto l'onorevole Muro su un SMS. L'onorevole Muro doveva passare a Futura Libertà, anzi è passato a Futura Libertà, era stato eletto con Berlusconi nelle file del PDL, poi è passato a Futura Libertà. A un certo punto, quando la cosa si è ufficializzata, Gasparri gli avrebbe mandato questo messaggio che lui dice di aver conservato. Un miserabile non merita neanche disprezzo, punto. Saranno le disgrazie che meriti e che certamente avrai che ti faranno capire chi sei. Ha sentito? Mi dà un minuto per spiegare la storia? Sì, è un... Allora, Muro era uno dei primi dei non eletti della lista del PDL. Sì. A un certo punto poteva subentrare perché un tale Desiano, consigliere regionale, ha optato per la campagna. Deputato. Allora doveva decidere, cioè, ma se io resto in consiglio regionale e lascio la Camera, subentra Muro. Muro resterà col PDL o meno, siccome era un mio amico, venne da me e mi ha pregato in tutti i modi: dai tutte le garanzie a tutti, se no che Desiano rimaneva alla Camera e non perdevamo un deputato. Sì. Lui quindi ha fatto, come dire, uso della mia reputazione, della mia credibilità. Io ho rassicurato tutti gli esponenti della coalizione e Desiano, se ti dimetterai, Muro mi ha assicurato che resterà. Sì. PDL, altrimenti quel Desiano rimaneva alla Camera e non perdiamo un deputato. Quindi lui ha usato la mia persona, la mia parola, la mia credibilità, mi ha ingannato e dopo un po' se n'è andato. Quindi il messaggio, lei conferma quel messaggio, va giudicato sulla base del tradimento di un'amicizia e dell'abuso della mia reputazione, perché Muro, con toni insistenti, imploranti, martellanti, per mesi mi chiedeva: Maurizio, convinci tu che Desiano può lasciare la Camera e rimanere alla Regione, perché io starò nel gruppo che mi ha candidato e grazie al quale sono stato eletto. E io ho messo la mia parola, è come se lei garantisse per una persona, certo, certo, che si comporterà secondo quello che lei dice, lei fa da garante morale e poi quello si comporta male. Credo che, cioè, scusi, per far capire agli ascoltatori, per essere indispettiti sia legittimo, parola più, parola meno. No, certo. Se lei sarà capitato nella vita, no? No, no, ma lo sto, io non sto criticando niente. Questa persona, garantisco io, si comporterà bene, sarà assolutamente, mi è capitato. Poi la persona si comporta male, lei dice, ma va a quel paese. O sì, no, no, ma Gasparri, ma io abbiamo sentito la storia, abbiamo sentito la versione di Muro, che naturalmente non ci ha detto il modo in cui è avvenuto. Se l'antefatto, capito? Se ve l'ho raccontato, lo smentisca Muro se è in condizione di farlo. Cioè, non sostanzialmente Muro le ha chiesto insistentemente di convincere, o comunque se le ha assicurato. Assicurare sulla sua. Se si dimetteva un deputato che era anche consigliere regionale, doveva optare, sì, tra l'una e l'altra degli incarichi. Il dubbio qual era? Ma colui che mi subentra alla Camera, insomma, i voti sono importanti, come non si sarà certamente distratto da rilevare, sì, allora lui rassicurò sulla sua appartenenza. E io, come dicevo, Muro non lo conoscevano molti, giustamente, sì, a me, sì, mi conoscono, e ho detto a tutti, Muro mi ha dato la sua parola, e quindi la sua parola, dopo questa parola, se l'è rimangiata, sono durissimo, sono stato smentito, però... quindi le sarà, ripeto, capitato anche a lei nella vita di comportarsi, sì, con generosità, però, con qualcuno, però addirittura augurare tutte le disgrazie possibili, parola, ma gli potevo scrivere una parolaccia, era la stessa cosa, guardi, quindi voglio dire, però ho ragione io, ha torto lui, perché io ho la coscienza tranquilla, lui si è comportato male, ha abusato dell'amicizia di una persona, cosa che nella vita capita a molti, sarà capitato a lei, ad altri, sì, è capitato, sì, anche a me, sarò più accorto le prossime volte, insomma. Ma non è stato Muro dice anche che le è stato offerto, che gli è stato offerto qualcosa, non è stato offerto, incarichi politici, incarichi politici, è deputato, insomma, era un dirigente politico, non è stato offerto nulla, io l'ho richiamato molto severamente perché ha abusato della mia credibilità, mi ha usato dicendo tu fatti garante, io sarò coerente, poi se n'è andato ed è passato, e io francamente ho fatto una cattiva figura per colpa di terzi, e non sono abituato, perché sono una persona che quello che dice, okay, fa, e quindi è questo che me lo riconoscono tutti. Parenzo, vogliamo parlare del nome del PDL, anche se poi c'è anche un documento firmato PDL, anche se mi pare che la preoccupazione di Berlusconi su questo nome del PDL rispetto al fatto che sta crollando tutto mi pare, come dire, abbastanza limitata, no? Beh, però no, oggi, nome... oggi l'ha ripetuto, ma a lei va questa cosa, Gasparri, che uno possa cambiare, come dire, il nome a un partito appena nato, poi in sostanza, oppure non è sbagliata questa preoccupazione? A lui piace il nome Popolo della Libertà. A lei piace? Quello che non piace a Berlusconi è la sigla, perché un conto, se lei dice il Popolo della Libertà, suona anche bene, il Popolo della Libertà, se dice PDL sembra un, come dire, un codice fiscale, non suona bene, quindi a lui non piace questa... Beh, dice che non tira più, però, dice che la gente non piace più, non è che dice, no, solo no, la sigla. No, non è mai piaciuta la sigla ridotta in PDL, perché il concetto Popolo della Libertà, noi comunque poi ci riconosciamo nel Partito Popolare Europeo... Vabbè, ma a lei piace invece, è sbagliato cambiarlo. Il nome... A me piace il nome Popolo della Libertà, se ci sarà un'idea migliore sono aperto a tutte le... Si faccia venire un'idea, Gasparri, secondo lei l'idea migliore? No, bisogna venire, a me piace il Popolo della Libertà, oppure si può chiamare direttamente Partito Popolare Europeo, sezione italiana, non lo so. Il problema è la sigla. Sezione italiana. No, questo è impossibile, Partito Popolare Europeo, sezione italiana, è una cosa orrenda. È un nome terribile. È un nome terribile. Non credo che i nomi dei partiti si possano fare con un concorso radiofonico. Il concetto della perché no? Si può anche fare, io non sono favorevole a questo. La sigla PDL a Berlusconi non piace, il nome Popolo della Libertà per esteso è più significativo. Ho capito, ma fategli capire che non si può cambiare partito ogni nome del partito ogni tre secondi. Glielo dica lei che sono, come i dire, valori e i programmi dei partiti che contano. Io apprezzo il nome che c'è, ma ripeto, il problema, anzi la notizia di oggi è che l'ha detto, il partito è questo, è escluso tutte quelle cose che faccio, Forza Silvio, scritto, Forza Silvio, queste cose. Questa è la notizia giornalistica, è questa. No, è un'altra notizia giornalistica di oggi, veramente. Qual è la notizia? Secondo me, lo dico al collega giornalista Gasparri, la notizia è Berlusconi che dice che vuole riformare la televisione perché il problema è la televisione, è una cosa meravigliosa. È una vecchia questione, Parenzo, di cui si parla da decenni. La riforma della televisione, ma certo non la può fare. Lavoriamo per cambiare la TV, Gasparri, su, con tutto quello che sta accadendo. La televisione è un po' come la nazionale di calcio, tutti ne parlano sempre. Ma Berlusconi infatti si occupa di altre cose, si sta occupando dei temi della Banca d'Italia, dell'economia, non della televisione. Senta, ma lei, c'è anche lei in tra i deputati forse no, ma insomma tra i, non so se ci sono anche senatori che hanno firmato questo documento, una lettera in sostanza a Tremonti per recuperare i fondi? L'ho firmata anche io, no, ma è una lettera per dire che bisogna avere coraggio nel percorso delle riforme, un appello che ha fatto il Foglio, e quindi mi hanno chiesto oggi il Foglio di aderire e ho aderito a questo appello. A proposito, va bene, che c'è? Che c'è? No, questa polemica durissima, perché oggi Roma, io sono a Roma, c'è stato un ubrifacio pazzesco, c'è stato pure un morto, una roba tra l'altro Alemanno ha detto che lei in televisione, com'è che ha detto ultimamente ai nostri amici di Un Giorno da Pecora, ha detto che Alemanno, che Gasparri è uno dei più noiosi, un politico di centrodestra noioso da vedere in televisione, Gasparri. Ma guardi, l'ha letta. Sì, ne abbiamo anche parlato. Comunque, voglio dire, avete fatto pace? Ma guardi, io ho cose serie di cui occuparmi, anche alle mani, insomma, quindi a un certo punto è meglio che ciascuno si occupi delle sue incombenze. Oggi Roma ha subito una concentrazione di pioggia record e quindi ci sono stati dei disagi di fronte a quella. Ma ha visto la Lega cosa ha detto? La Lega ha detto basta. La Lega si è messa con alle mani perché dice si è usato i soldi per fare i festival del cinema, amico mio, affonda tutto qua. Questo Reguzzoni è capogruppo della Lega. Ma fa male il festival, perché loro sono gelosi che c'hanno il festival a Venezia, vorrebbero che ci fosse solo quello di Venezia. Va bene Gasparri, grazie, buona serata. Buonasera. Eccoci qui, 20:11, 800 24 00 24, questa è la Zanzara su Radio 24, andiamo a sentire Antonio da Napoli, buonasera Antonio. Buonasera a lei. Dica. Io quello che ha detto Gasparri l'ho detto un'ora fa alla sua collaboratrice, cioè? Quindi ritornarci sopra, no, è sciocco quello che le pressioni che faceva Muro per essere... per entrare in Parlamento, eccetera, eccetera. Qui è molto ripeterlo, non serve. Cioè, scusi un attimo, secondo lei ha ragione Gasparri quando dice che il signor Muro... Ma no, è tutto vero, eravamo là, le telefonate... Ma eravamo chi? Lei chi è, Antonio? Eravamo chi? Faccio parte del partito da 40 anni, li riconosciamo. Quale partito? Da 40 anni non c'è nessun partito ormai da 40 anni. Beh, c'era l'MSI, amico mio. L'MSI. E nei nostri cuori c'è ancora, quindi... ma sembra essere fazioso, ma con qualità. No, scusi Antonio, però abbia pazienza, lei ci telefona e poi mi dice vabbè sì, io no, ho fatto io, allora quello che ho detto Gasparri l'ho detto alla sua collaboratrice, vabbè, me lo dica a me, l'ha detto la collaboratrice, lo dica a me. Il signor Muro non era deputato, quindi nel momento in cui ha chiesto, ha fatto pressione al partito, ai suoi dirigenti, a Maurizio, ad altre persone per diventare deputato, poi è passato dall'altra parte. Lei dice che mentre premeva per diventare deputato ha assicurato che sarebbe rimasto. Io non dico, allora Parenzo dice sempre che quelli che vengono da questa parte li compriamo, quelli che vanno dall'altra parte. No, ma noi non stiamo dicendo niente, veramente, guardi, lei si sbaglia, noi non stiamo dicendo. Vergini, ha capito? Eh? Invece non è così, lui le mandi qui a diventare deputato, è passato dall'altra parte. Per quanto riguarda Bocchino, ogni tanto lui fa il censore di tutto. Bocchino c'è lo strumento musicale che è fatto di due pezzi, il bocchino e la culisse ed è il trombone. Il bocchino non è manco mezzo trombone, è un quarto di trombone, dice cose inutili essendo stato nel partito per decenni, quindi sa che come si comportava all'interno del partito, la qualità delle persone. Poi tra Gasparri e Alemanno il migliore era La Russa. Era quello piuttosto, non so chi difende così bene. Vabbè Antonio, grazie. È con noi Milli d'Abraccio, buonasera. Sì, buonasera, come va? Come sta? Signore, come sta? Non c'è male. La conosci tu, Parenzo? La conosco di fama, purtroppo non di persona, ma la conosco di fama. Ma guarda che, non è che sia inavvicinabile la signora d'Abraccio, per carità, no, ha la sua privacy, cioè però... si è addirittura candidata. Allora, innanzitutto... sentiamola però posso darti una notizia prima? Qual è la notizia? Perché il signor Anacleto, sì? Il signor Anacleto che è qui, che è un grande ascoltatore della Zanzara, sì? Che è il signore l'autista che vi sta portando, sì? Dal signor Banfi, dal signor, sì? Banfi mi ha detto ma è lei Parenzo, mi, sì, saluti il signor Cruciari, quindi questa è la notizia, posso, perché ci tiene molto a salutarti. Puoi darla anche a Lanza direttamente, posso, il signor Anacleto. Perché ridi? Il signor Anacleto che è autista, che lavora, che produce, aspetta un attimo, che il signor, sì, Anacleto. Vabbè, passami Anacleto. Benissimo. Buonasera dottore. Mitico Anacleto, autista Mediaset immagino, no? No, proprio. E che fa di mestiere, scusi lei? Noleggiatore da rimessa. Noleggiatore, certo, noleggiatore. Sì. Noleggiatore in questo caso per conto di Mediaset. Insomma, sta, sì, molto in macchina e ascolta sempre la Zanzara, molto, giusto? Quest'ora è un passatempo piacevolissimo. Bene, grazie signor Anacleto. Grazie. Buonasera. Porti buonasera. Sano e salvo Parenzo senza me, non alla l'altro. Versione di Banfi. destinazione. Dove questa sera è ospite, giusto alla Parenzo? Palatino, sì. Bravissimo, buonasera. Grazie. Parenzo? Ecco sei qui. Allora, no, signora Milli, mi sembrava giusto, assolutamente, signora Milli da Braccio, insieme, come dire, una delle icone, è stata per anni una delle icone del cinema hard. Tu hai mai... dovrebbe insegnare nelle scuole educazione sessuale la signora da Braccio. Hai mai visto qualche film con la signora da Braccio? Dunque, credo, adesso le storie non le racconto. No, le ma ricordo, a me non mi interessa che tu ricordi le storie, ma no. Qualche film l'hai mai visto? Sì, sincero. Perché ma io l'ho detto mille volte, io sono un cultore del grande Tinto Brass, ad esempio. Ma che c'entra Tinto Brass? Io no, stavo parlando di altra cosa. Ho visto i film del maestro Siffredi, qualcosa avrò visto, sì. E della signora da Braccio mi pare di ricordare di aver visto una cosa dove c'erano dei nani, se non ricordo male. Dei nani? Non ero io. No, ti confondi. Forse era Moana. Forse era Moana, chiedo scusa. Nella filmografia della signora da Braccio, scusi se la chiamo signora, nel senso che magari le do più di... La signora da Braccio parte nel 1984 in un film con Johnny Dorelli addirittura, vediamoci chiaro. No, io ho una lunga carriera prima che nel mondo cosiddetto normale del cinema, esatto, dello spettacolo. Esatto. E poi ho fatto il salto di qualità, no? Sì, certo, il famoso salto di qualità. Sì, cioè, per alcuni invece, secondo loro, ho fatto il salto nuovo nel fosso, no? Nel buco. E invece, secondo lei ha fatto il salto di qualità, ma io anche secondo me lei ha fatto. Senso, nella vita bisogna sempre fare qualcosa per lasciare il segno. Io in qualche maniera ho cercato di lasciare un segno. Beh, diciamo, poi... tra le icone del cinema hard ci sono tre persone, secondo me, per quello che riguarda le donne. Vabbè, una lo sapete, Moana, inarrivabile, poi c'è Cicciolina, non c'è dubbio, e poi a te, io non dico terza, ma più. Io penso che noi tre e Rocco Siffredi abbiamo chiuso, siamo le icone dell'arte. Ecco, lei tra le due, cioè Cicciolina e Moana Pozzi, come si colloca? Al terzo posto, medaglia di bronzo? No, sono venuta per terza, quindi però ecco. Solo Moana, per questo, cioè chi era più brava? Diciamo la verità, siamo brava. Chi era più brava? Brava, io mi reputo una vera attrice, loro forse non hanno fatto una vera carriera di attrice, io sono veramente un'attrice che si è cimentata nell'hard e ha portato all'hard un qualcosa in più. Cioè io recito meglio di Moana Pozzi e di Cicciolina. Ma no, non è che recito meglio, cioè sì, recito meglio, a parte che se vedete i film potete notare insomma le interpretazioni di Moana, perché all'epoca lei usa tutte le parti del corpo, cioè vede, mentre le altre due colleghe usavano specificatamente. Ma chi te l'ha detta questa? Ma se non parte... Io sono un esperto di cinema hard. La signora usa tutto il corpo, ma non li hai visti? Ha una mimica, come? Non li hai visti i film? Come fai a dire? Io ho fatto pochi film, saranno 25-30, quindi posso fare tipo cult movie sono i miei film, perché veramente pochi, però che sono ben impressi nella mente delle italiane. Uno si chiama addirittura l'onorevole. Certo, l'onorevole. L'educatrice, tutti personaggi molto poi ci sono altri donne. ci sono altri che insomma anche il titolo L'avvocato del diavolo, tutti i ruoli passati, c'è anche Paolina Borghese Ninfomana Imperiale. Vabbè, lasciamo perdere, questo è buono, qual è la storia? Un attimo, traffico, torniamo subito perché Milly da Braccio si candida come sindaco di Monza, dunque in diretta concorrenza con Cicciolina. Caro Parenzo, lo sapevi questa notizia o no? Città interessante, adesso che non ci sono più i ministeri mi pare che diventi interessante. Questa non la conosci, Parenzo, non la conosci. No, Parenzo diceva, Parenzo non la conosci. Però la userò come ninna nanna per mia figlia. Non te lo consiglio, però. Non te lo consiglio perché poi prosegue. Perché io sono radicale, liberale, perché? Ho capito, ma tua figlia ha 6 anni, abbia pazienza, 5. Non sento il testo. Non senti il testo. No, ma sono una canzone tranquilla, Sì, assolutamente. Però insomma, adesso magari è meglio. Bambina di 5 anni è meglio di no. Lei non la consiglierebbe per una bambina di 5 anni, o no? Ma era così candida, poi insomma. Avevo 14 anni e 78. Le 14 anni erano un po' diverse da quelle di oggi, quindi eravamo delle proprio sciocchine. Com'è che si chiamava? Ma lei, signora, che età ha fatto l'amore per la prima volta? Un po' tardi, devo dire. Ha recuperato 12 anni? 13? 13 anni. Ha recuperato dopo, insomma. ma io comunque l'ho fatto per lavoro, quindi ho una scusa, ho una motivazione. Vabbè, ma scusi, non lo si fa mai solo per lavoro. Ho fatto l'amore lei ci metteva anche passione, diciamo la verità. Quella la passione ce l'ho in tutte le cose. Per il sesso ha passione, lei. Per il sesso ha passione. Avellinese, quindi di madre napoletana, papà Pelinese, quindi sono del sud, sono una classica terrone, quindi è ovvio che ho tutta la grinta, tutta la passione. Allora, la lista con cui si candida Milly D'Abraccio a Monza si chiama Forza Monza e Brianza. Siccome la signora Cicciolina propone al posto della Villa Reale, in alcune sedi della Villa Reale, di fare un casino, adesso lei in 30 secondi deve essere un casino, non un casino, un casino. Allora io vorrei che lei mi dicesse un paio di cose che vorrebbe fare a Monza, proprio velocissimamente, perché lei deve essere sintetica. Io, per esempio, a parte che la Villa Reale la lascerei così bella per eventi artistici, quindi mostre contemporanee dell'arte, fare balletti. Niente casino, dunque, niente casino. Niente casino. No, il casino lo lasciamo in Parlamento. Qui invece ci vuole qualcosa di bello, perché si presta. Tanto è vero che ho detto, parlando con i miei segretari, ho detto, se io dovessi diventare sindaco vorrei creare il Monza Music World, cioè un festival della musica, diciamo, naturalmente leggera, come bene. Il festival però, bar, no, e poi diventare Monza. Questo lo potrebbe proporre chiunque. Lei deve... è molto bello, no? Cioè, se dovessi diventare sindaco farei subito un festival dove attirerebbe una volta all'anno. Festival di musica, festival di musica, benissimo. Festival di musica, però mi dia un brivido, perché adesso hanno per fortuna appena chiuso quei ministeri lì a Monza che non servivano a nulla. Se lei mi dice io mi candido per fare, che sono una strada del sesso... questo discorso, sì, io mi candido... Per fare che dice, una strada, un festival del sesso, una strada. Allora lì potrebbe diventare molto attrattivo, perché è l'unico mercato che tira, quello lì ormai. Ho detto anche che secondo me ci vorrebbe, ma non solo a Monza, al nord, nelle grandi città d'Italia, quali sono? Roma e Milano, che ci vorrebbe? Firenze. Beh, io avevo pensato che era molto interessante invece realizzare, certo non io ma degli imprenditori, dovrebbero realizzare un centro commerciale per adulti dove all'interno, invece di trovare Ikea di qui di là, trovare una serie di cose, un enorme sexy shop, insomma un grandissimo, no, dove c'è tutto, dalla biblioteca erotica, il sexy shop, il cinema, il striptease, cioè per dire, ecco, creare un centro commerciale per adulti, un grande centro commerciale, grande, ma deve essere grande, che deve portare tanta gente grande, quanto? Scusa, grande quanto? Tu per adulti è una cosa enorme. Sì, deve essere un posto dove uno va a passeggio con la fidanzata, andiamoci a divertire, ma un posto per adulti, non... Cioè lei dice un multisala del sesso. Non il sesso visto in maniera losca come lo vediamo sempre in Italia, certo. Come lo concepiscono all'estero. Quindi e dunque anche all'interno anche saune e cose di questo tipo, no? Bellissimo. Sì, sì, ci potrebbe essere tutto. Beh, molto tutto. Innovativo. Come lo chiamerebbe? Però... Bunga Bunga? No, quello lo lasciamo fare ad Arcole. Ma lei ha mai partecipato a qualche Bunga Bunga? No, no, è un po' troppo agé, un po' troppo agé per il Bunga. No, perché insomma io sono nata protagonista e stare in mezzo a tutte le altre non mi va. Ah, non troppa agé, troppe intorno a Berlusconi. Cioè io devo capire chi è la protagonista, sono io e loro mi fanno da contorno, va bene. Chiamiamo le escort e mi fanno da tipo, perché io quando lavoravo in Rai come prima ballerina, io ero sempre avanti, le ballerine c'erano le ballerine dietro, quindi sono abituata a avere sempre le altre dietro. Dunque lei non andrebbe perché troppa gente, no. Però insomma lei anche nelle situazioni, come dire, no, con più persone non mi sembra che si trovi a disagio. Sì, vabbè, però non mi piace la confusione, mi piace fare le cose tetto a tetto, fatte bene. E soprattutto devi sapere, Parenzo, che ultimamente alla signora D'Abraccio, ultimamente un po' di anni, piacciono molto di più le donne degli uomini, è vero? Adesso non vogliamo. È vero. Certo, se gli uomini continuano a essere così, che l'ho sentito prima, appena mi avete collegato. Però faccia coming out, signora D'Abraccio, no, faccia un bel coming out. Come mi avete collegata qui. La trasmissione rosa, sentivo degli uomini che parlavano, se gli uomini continuano a parlare a vuoto, certo che anche le donne a un certo punto si stancheranno e si rivolgeranno a quelle dello stesso sesso, perché naturalmente l'uomo come fanno i politici, parlano però non concludono poco. Cioè, vorrebbero più donne in Parlamento, più donne ministri, più donne insomma anche nei ruoli di potere. Ecco, a lei che piacciono le donne, ma la più bella, la più erotica del Parlamento chi è? Anche tra i ministri, ma io sinceramente quando penso a un politico non penso alla bellezza, però te lo dica, all'efficienza, perché comunque sì, quello d'accordo, però lei la più bella, la più bella in Parlamento, quella che ispira sesso, chi è? Non lo so. Come non lo sa? Ispira Rosy Bindi. No, vabbè, adesso ci prende in giro o è serio? No, perché lei, io sono molto eccitata, io sono strana, perché sono molto eccitata dalla mente delle persone, cioè dal potenziale, Scusi, lei corteggerebbe Rosy Bindi? Io sì, da tutte tutte quelle persone lì, sì, perché mi sembra la più intelligente e quella un pochino più, lei come la Bonino, come altro, sicuramente di sinistra. Cioè lei, non so, di fronte alla Bindi e a Mara Carfagna, chi sceglie come corteggiamento? Mara Carfagna è troppo facile da sedurre, io vorrei come troppo facile qualcosa di più difficile. Come è troppo facile sedurre Mara Carfagna? Brava, perché lei tra le due sarà più difficile sedurre la Bindi, forse mi manderà a quel paese, capito? Ecco, allora mi piacciono le cose difficili. Perché lei è un po' più di, mi sembra che è un po' più di sinistra, no? O sbaglio? No, per niente. Sì, no, diciamo, sono sempre solo, sì, più di sinistra, sì, più di sinistra, sì, diciamo socialista. Dunque grande sorpresa, l'ex, come dire, no, uno rimane pornostar a vita in realtà, no? Sì, cioè sì. Pornostar Milly D'Abraccio, che ha una insomma i suoi gusti sono prevalentemente femminili, o beh, sbaglio? Diciamo che mi trovo, come si definisce, bisex? Il mio animo è gay, naturalmente mi trovo molto più vicino al pensiero gay che non al pensiero etero, vedendo poi come stanno andando le cose, quindi soprattutto in Italia, insomma, corteggerebbe di più, ama le sfide, corteggerebbe di più Rosy Bindi rispetto a Mara Carfagna. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti, che le devo dire, cioè. Beh, perché la trovo più incorruttibile, diciamo, la Bindi, quindi c'è più gusto. E il più erotico tra i politici chi è, tra gli uomini? Angelino Alfano. No, vabbè, ho capito. Vabbè. Adesso mi alzo e me ne vado. Siamo d'abbraccio, ma lei non è, cioè, non è oggettiva, non può definire Angelino Alfano il più erotico. A me sì, a me piace, se è piaciuto sin dall'inizio, infatti l'ho sempre seguito, che lo trovo una persona molto fine, molto per bene, molto chic. Vabbè, ho capito, fine per bene, ma non è che le ispira sesso. Sì, è molto affascinante lui. Sì, lo trovo un uomo interessante. Perché l'uomo non deve essere bello, deve essere. No, Cioè, lei passerebbe una notte con Alfano? Ma sì, anche di più, però. No, ma io devo essere l'amante ufficiale, però non voglio passare una notte. Io sono sempre quella che deve essere la prima. Quindi prima dopo la moglie. Prima e dopo la moglie? Beh, non ha la moglie. Sì, penso di sì. Sì, quindi, no, sì. Dopo la moglie voglio essere la prima. Nel senso, allora, borsa e torniamo subito. Milly D'Abraccio, candidata a sindaco di Monza. Chi prenderà più voti, lei o Cicciolina? Ma guarda, questo non lo so. Comunque. Lei diciamo si sente. No, perché diciamo che. In che rapporti è lei con la coalizione sua, Ilona Stahl? Dietro invece io ho, diciamo, questo partito che è già esistente da 4 anni. Che comunque si muove, che investe, che vuole. L'altra volta lei a Roma, quando fu candidata, prese 19 voti. Cerchiamo di fare meglio, Siamo qui 800 24 00 24. Allora, collegamento come ogni sera, no, ogni sera no, però insomma, un collegamento frequente che abbiamo con il cuore politico del paese. Prima di tornare sempre in collegamento con noi, anche Milly D'Abraccio, che cerca per la seconda volta di sfondare in politica dopo una sfortunata candidatura nel 2008 alle comunali di Roma, e lo facciamo naturalmente con la Villa Reale di Monza, che sta per essere sgomberata, però resta qualche presidio e ogni tanto resta anche il suo principale inquilino, cioè dire il ministro Umberto Bossi. Buonasera. Buonasera. Scusi, ministro, che fa ancora lì? Abbiamo fatto intanto il federalismo fiscale. Ma ancora, questo va ricordato sempre. Abbiamo fatto il federalismo fiscale e tutte le riforme. Adesso ci stanno venendo a portarmi via, non ho capito la scrivania. Dove sei, Calderoli? Dove è finito Calderoli? Calderoli non so dov'è, lo sa lei dov'è? Calderoli, dove sei? È andato via anche Calderoli, è andato a semplificare, mi sto portando via la scrivania. Ho capito. Volevo dire che oggi la Lega sta vivendo un momento molto drammatico. Hanno nominato questo Visco, nome mi fa, è terribile, nome mi sarà parente di quell'altro Visco, quel coglione che metteva le tasse tutte le volte. No, non è parente. È parente di sicuro. No. Tra l'altro è uno di Napoli, questo Visco, è di Napoli. Sì, è di Napoli, volevo il signor Grilli. Lo sapevamo, infatti. È di Milano. Allora, adesso ho parlato con Berlusconi, poco fa le voglio dare una notizia qui a Radio Padania. No, è Radio 24. È Radio 24. Ora si chiama Radio 24 Sole delle Alpi, quindi diventata una radio nostra del nord. Ma chi l'ha detto questo? Vabbè, comunque. Devi tornartene a Roma, capito? Che se tu fai l'acqua a Roma, torna a Roma. Vabbè, ho capito. Cominciare a pedate nel culo, ti vanno a Roma. Vabbè, allora? Allora adesso si vuole un nuovo governatore. Sì. Non sarà più questo Visco. Visco ma l'hanno appena nominato della banca di Baghdad. Visco va a Baghdad. Ma l'hanno con Alfano, lui è Alfano. Ma l'hanno Baghdad appena nominato, Bossi. Le agenzie ribatteranno. Il nuovo governatore della Banca d'Italia si chiamerà Renzo Bossi. No, Renzo, vabbè, ho capito, ma lei vuole piazzarlo ovunque questo Renzo Bossi? Lei vuole piazzarsi, è un cretino, se parli così, non si piace, i figli non si piacciono, i figli come dicono a Napoli, gli amici tuoi sono piedi e cuore, come dicono a Napoli, gli amici tuoi. Ho capito, però mi scusi, non si può, Visco è stato, Visco è stato appena... Cosa fa, se no, il trotto, cosa fa? È stato appena... Tu lavoro lì a cantare, No. Vabbè, comunque lei dice che la nomina di Visco è solo provvisoria. Vabbè, questo è un commento politico che esprime il mio dissenso sulla giornata. Sulla giornata, benissimo, grazie a Umberto Bossi, il collegamento dalla Reggia Reale di Monza. E abbiamo sempre Emilio D'Abraccio in collegamento con noi, candidato appunto a sindaco di Monza. Beh, si troverà di fronte a una bella gatta da pelare, naturalmente. Volevo chiedere a Milly D'Abraccio una cosa, ma lei ci crede a questo Berlusconi come supersonico nel fare sesso? Cioè, no, assolutamente no. Come lui no? È un uomo gogliardico, un pasticcione, uno che è com'è, cioè... lei se lo vede tipo era così freddi che si fa tutte le escort che vanno a Palazzo Grazioli. Secondo me uno che ama avere la corte intorno al 16, le ragazze giovani, ma poi all'atto pratico ma 7-8 di seguito è possibile 7-8 di seguito è possibile, quindi lui è solamente un uomo che ama corteggiarsi di belle donne da vedere. Ma scusi, ma lei non ha mai fatto 7-8 di seguito quando faceva i film? Ma che c'entra, ma è un altro discorso, facciamo due mestieri diversi lui. Cioè, mentre io ho voluto fare la volontà e forse posso fare il politico, lui ha fatto l'industriale, ha fatto il politico, ma forse non può fare il pornostar. Ah, beh, questa è buona, però questa è buona. Dunque, sono leggero, lui sicuramente non può fare, però con gli aiutini potrebbe farlo. Con gli aiutini potrebbe farlo. No, guardi, se era un vero, diciamo, così freddo non si faceva neanche scoprire, faceva le cose fatte bene, proprio perché è un simpaticone, l'ho conosciuto da tanti anni fa, è un uomo molto simpatico nel privato. Ecco, ma gli dica qualcosa, rischia, se vuole fare così il porno star, rischia la salute, glielo dica, o no? Beh, sì, dai. Si rischia, secondo me all'età sua dovrebbe fare delle cose più rilassanti, andarsi a godere i suoi soldi, forse lui andrei alle Bahamas. Cioè, troppo sesso fa male. Ma non anche troppa politica, ma alla sua età dovrebbe stare un po' più tranquillo, divertirsi, insomma, fare delle cose più... che impegnano meno, che stressano meno, di lasciare lo stress ai giovani o comunque alle persone, diciamo, intorno ai 40, ecco, che ancora... Troppo stress. Lei dice, signor D'Abraccio, perché lei dice che troppo sesso è anche pericoloso, una certa età, questo dice. No, il sesso non è mai pericoloso. La politica si può essere pericolosa se usata male, ma il sesso no. Beh, no, però tanto sì. No, non è mai morto nessuno di tanto. No, qualcuno qualche volta tanto, poi a un certo punto ci avrà un crollo, dovrà fare una cura ricostituente, non lo so, ma comunque non credo, ecco. Mm. Il sesso è un po' come mangiare, quando hai fame, appetito, mangi. Ecco, però poi... una persona di 75 anni che sembra, da quello che sappiamo dei racconti, fare sembra avere questa... racconti, ma guarda che non è così. Lei non ci crede, dovrebbe essere un porno star per fare quello che si legge. Il mestiere, non credo. E credo che uno che ama avere tutti intorno a sé, tutti sotto controllo, e quindi come usa fare un leader, non solo si preoccupa di fare bene il suo lavoro, ma si deve preoccupare anche, si vuole preoccupare del divertimento dei suoi... Ecco, ma a chi lo paragonerebbe nel suo mondo? A chi si potrebbe paragonare Berlusconi? Certamente non a Rocco Siffredi, come abbiamo detto. Oh mio Dio. A chi si potrebbe paragonare? Ma non è che il mio mondo, io non c'ho un mondo, il mio mondo è tutto, è ovunque, non è che io vivo in un mondo relegato. No, certo, no, ma nel suo mondo, diciamo, quello che no, è stato anche perché è un mondo ristretto, poi non è che ci frequentiamo, nessuno si frequenta tra di noi, io almeno, quindi uomini ce ne sono pochi in questo mestiere, quindi, e poi comunque non si può neanche più parlare di mestiere perché è finito, diciamo, è finito anche quello, quindi comunque non usciranno più vivi, più diciamo. Allora, Milly D'Abraccio, tra l'altro, ha avuto fidanzati famosissimi. Ma io volevo capire, ma questo è veramente, veramente Bossi che parlava o no? No, certo. O è un imitatore, perché ma no. Può scurrire, ma veramente. Ma voi avete un modo di parlare, però molto. Però vocale, scusi, chi noi? Ma è che c'è un imitatore che può, come dire, avere anche. Dice le stesse, cioè Bossi oggi ha detto esattamente le cose che ha detto. Guardi che Bossi fa le pernacchie, dice stronzo. Ah, non lo vedi, non lo seguivo. Lei fa politica adesso, dovrebbe seguire l'attualità politica. Ho paura di scoprirla. Allora, i fidanzati di Milly D'Abraccio, da quello che si dice, sono stati, che ne so, Stefano Casiraghi addirittura, o no? Anche. Sì, ma andiamo molto indietro. Molto indietro, eh. Benigni, è vero? Sì. Fidanzato ufficiale, però. No, ufficiale o ma... storie, diciamo. Storie. Ecco, fino ad arrivare appunto a Vittorio, che invece è stato... Vittorio Sgarbi, Roman era... Polanski addirittura. Roman Polanski. O sbaglio? Vedo che siete molto interessati da queste cose qui, eh. Robert De Niro, pure? Sì. Ma voi siete terribili, eh. Roberto Rossellini. Scusi, però, mi dica la verità. Ma quelle erano tutte amicizie che io... ho avuto ancora prima di fare la pornostar, quindi io quando ho fatto la pornostar veramente non ho più avuto a che fare con personaggi pubblici, perché naturalmente avevano terrore, avevano paura, ma io tutti questi personaggi li ho incontrati, li ho conosciuti prima, quindi scusi un attimo, mi dica una cosa, un abbraccio, che è successo là? Chi c'è? No, aspetta un attimo, ti passo una persona. Chi ti c'è? Passo una persona. È un'esclusiva, è un'esclusiva. Chi è? Chi è? Mi passo ogni tanto le persone. Grande. Chi è? Sono Marco Rizzo. Oh, caro Rizzo, come sta? Anche lei ospite della versione di Banfi? Di che parlate stasera? Di Gheddafi. Di Gheddafi, parlate anche degli incidenti sicuramente di Roma, degli scontri di Roma. Parleremo dell'attualità, immagino. Dell'attualità, eccetera. Lei dirà che sono bravi ragazzi, in fin dei conti, no? Le solite cose. O sbaglio? No, io dirò, io da questo punto di vista credo che quella manifestazione fosse una manifestazione che aveva come range politico dai banchieri ai Black Bloc, perché c'era Draghi che appoggiava, parlava. Questo di anche vero, capire, ma... è un po' come la volpe che sta nel pollaio e comprende le galline, ecco. Però c'era di tutto, quindi quando c'è molta confusione e non c'è un obiettivo politico chiaro, può capitare di tutto, ecco. Però adesso non ci stiamo a stracciare, perché insomma il mondo è violento, abbiamo visto. Vabbè, hai capito che significa il mondo è violento? Cioè dice non è tanto grave spaccare le vetrine di una banca? No, guardi, io non mi fermo al dettaglio, sto parlando di... Cioè secondo lei, scusi Rizzo, spaccare le vetrine... Sono qua Parenzo che fa la voce di quelli che mi vogliono mettere la parrucca. Scusi Rizzo, spaccare... Mi dica una cosa chiara, spaccare la vetrina di una banca è sbagliato, me lo dica. Guardi, io posso dire una frase di Bertolt Brecht. Mi dica una frase di Bertolt Brecht. È peggio chi fonda le banche che chi le sfonda. Questo è fantastico, però è una cosa di una gravità inaudita, scusi. Però le ripeto. La violenza in quelle dinamiche lì non è finalizzata, insomma, credo che non serva assolutamente a niente. Ho capito, però lei dice meglio chi spacca le banche. No, che... ho fatto una citazione dotta, ogni tanto posso farla anch'io. No, come no? Bertolt Brecht diceva che... Ma la condivide lei evidentemente? Una banca che chi la sfonda, nel senso di un rapinatore. Sì, ho capito. Ma io non voglio fare apologia, perché io mi rendo estraneo da questa discussione, perché le dico, le ripeto, manifestazioni di quel tipo lì ne abbiamo viste, ma non producono nulla. Ma sono gravi le cose che sono accadute o no? Oppure sono cose che succedono perché la violenza è nella società? Ma è una società violenta, ci sono 1300 morti sul lavoro in Italia ogni anno, c'è l'esercito italiano che sta in Libia a difendere il petrolio dei francesi, peraltro adesso si parla anche di Gheddafi. Dunque non è così grave quello che è accaduto. No, tutto è grave, però le ripeto, io non sto a questa discussione, uno è bravo, l'altro è cattivo. C'è una situazione di una società che è esasperata. Io ho un obiettivo diverso, ho l'obiettivo di costruire un qualcosa di duraturo. Sì, no, questo lo sappiamo, i movimenti vanno e vengono, le idee restano e io sono per farle restare, le idee, capisce? E quindi, come si può dire, vorrei che tutti questi giovani avessero una passione spregevole per il cambiamento, che resta nella vita. Vabbè, però io sono andato a quei cortei lì nel 77 e sono rimasto uguale quasi 30 anni dopo. Spero che sia succeda così anche per questa per queste classi sociali, però spesso a volte si trovano magari delle persone molto estremiste da ragazzo e poi diventano magari le ah sicuramente diventano banchieri. Abbiamo il traffico, grazie, mi ripassi Parenzo, grazie. Sono qua Parenzo che reclama, mi reclama, non so se vogliono mettermi sì, a mi, mi ripassi no mi ripassi Parenzo. Siamo qui verso la conclusione. Parenzo, ti stai truccando? No, non mi sto truccando, sono qui con il grande regista Ermanno Corbella che ti passo. No, no, no, no, io voglio parlare con te, aspetta, aspetta. Ah, vuoi parlare con me? Aspetta, Nicola da Milano, Nicola da Milano, Nicola, Milano, è un ascoltatore. Abbiamo... Ma lascia stare Nicola da Milano, che c'è Corbella, il regista di media. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo, Nicola, dica, dica. Buonasera, volevo ringraziarvi per aver dato la parola allo splendido Borghezio. Ieri sì. Sì, un grande. Purtroppo lo fanno parlare una volta al mese. Ma per cui... guardi, adesso non è che no, proprio a noi questa cosa non la deve dire, perché insomma. No, no, non lo dico, no, non lo dico a voi, dico che purtroppo ogni volta che parla lo devono, lo mettono a riposo per un mese. No, no. Una volta al mese. E oggi ne ha sparata un'altra delle sue, il signor Borghezio. Ma ieri era calzante, perché oggi a Roma è piovuto e nessuno è andato a lavorare. Alle 9:30 il sindaco ha detto per radio che potevano starsene a letto a dormire, ma non ci si crede. E dunque? E dunque volevo dire che anche lei, sì, che è umano, sì, dovrebbe, però è un po' atipico, è un po' atipico, perché io sono romano, dovrei fare cosa? Ha tendenza a lavorare tutti i giorni della settimana. Beh, insomma, io credo che anche i romani lavorano tutti i giorni della settimana. No, scusi. No, no, non sono così convinto. Non è così convinto. Beh, no, però si faccia un giretto a Roma e magari si convince. Ma ne faccio tanti, ne faccio tanti per lavoro e torno anche volentieri a casa. Vabbè, comunque Nicola, cosa vuole che le dica? Faccio un giro a Roma e magari qualche pregiudizio se lo toglie. Pregiudizio? Pregiudizio, sì, qualche pregiudizio se lo toglie, ma non è che siano, voglio dire, poi... Io credo che sia un giudizio oggettivo, Cruciani. Cioè, lavorano poco, lei dice, a Roma si lavora poco. Nei ministeri, per l'amor di Dio, io... Nei ministeri si lavora poco. Per tanti anni, ma anche, anche gli statali, anche gli statali massimo, anche a Milano lavorano poco. Anche le ditte private, sì, è vero. E anche le ditte private a Roma, se uno sta nella filiale di Roma di una ditta grande, si lavora Milano, meno che nella filiale di Milano. Vabbè. Ma molto meno, molto ma meno, lo sa molto tutta meno l'Italia. Benissimo, no, questa è la sua valutazione. Grazie, grazie, salute, grazie. Signora, un abbraccio? Sì, sono qui. Eccoci, ascolto, qui. Dove si trova? Ascolto, a casa? Dove si trova? A casa? Sì, sì, a casa. A casa, lei ha una voce, mi ricorda qualcuno? Non mi ricordo, non so. Vuole che devo fare mente locale. No, no, devo fare mente ha locale. Ha una voce d'attrice, l'ho detto, una voce impostata, quindi. No, no, però mi ricorda qualcuno. Devo adesso poi glielo dirò. Comunque ci venga a trovare quando viene a fare la campagna elettorale, se mai la farà a Monza. Quando si vota a Monza? Beh, penso ad aprile, poi dipende da come vanno le cose, no? Appunto, però ci venga a trovare qui in redazione a Milano, così facciamo. A proposito di donne, eccetera. Buonasera, Giuseppe. Chi è? Chi è? E chi è? Sono Paolo Liguori. Paolo, Paolo. Ho sentito che hai un ospite così, io ho voluto intrufolarmi. Lo so. Sono qui con Davide, perché mi ha chiamato d'urgenza da Roma stamattina. Sì. Ha detto, vieni a dare una mano che dobbiamo asciugare Roma, era un'alluvione pazzesca. Ma come abbiamo avete fatto ad arrivare, tra l'altro? Con le pompe, siamo stati lì con le pompe tutto il giorno, adesso è asciutta. Certo che Alemanno nel 2008 faceva i... Alemanno ha bisogno d'aiuto, io sono venuto apposta per aiutare Alemanno. David mi ha detto, io vorrei aiutarlo, ma io no, sono obiettore di coscienza. Tu sei amico di Alemanno, vieni a asciugare te a Roma. Va bene, dai, ci sentiamo nei prossimi giorni, ci sentiamo nei prossimi giorni che devo chiudere. Ciao. Ciao, ciao. Allora, io volevo chiedere però in conclusione a Emilio D'Abraccio una cosa, poi sarà il nostro ospite un'altra volta qui a Milano. Sì, sì. Allora, la cosa è questa, tra tutti questi fidanzati famosissimi che lei ha avuto, quello più, come dire, più bravo nel senso più focoso, facciamo a intenderci, chi è stato? Ma focoso, io mi ho dei ricordi di persone che più, non so, che hanno avuto una personalità sicuramente più incisiva, più forte. No, però mi dica la verità, insomma, tra di noi, tanto sono le 9, a letto chi era più bravo? No, no. Ah, come no? No, non lo dice lei. Cioè, Benigni com'era? Benigni com'era? No, benissimo, era un pazzo, era come l'avete visto quando si comportava con la Carrà che si inginocchiava davanti, faceva le stesse identiche cose, pur di corteggiarmi, di cercare di ottenere qualcosa, era veramente uno spasso vederlo lì che strisciava e emanava monologhi, è veramente un uomo intelligente. Ma i politici di oggi, sono un po' più zozzoni di quelli di ieri, lei ha vissuto anche... No, io credo che quando c'era Craxi, tutto il Partito Socialista facevano cose molto peggiori, però le facevano bene di nascosto e non facevano tutto questo casino che magari ecco è stato incapace di fare Berlusconi di sé che poteva fare le cose un po' più, no? Un po' più? Un po' più organizzate, non so, uno che un po' più nascoste, un po' più nascoste. Vabbè, perché grazie, devo chiudere, grazie, ci venga a trovare qui a Milano, grazie, un abbraccio. Eccoci, Parenzo. Sì, ecco, sentiamo, qui. Ci sentiamo domani, Ci sentiamo domani. Agli ordini. Tutto 18... bene, bella puntata è stata. 18:30, no? Ciao. Beh, ma ti pare che puoi ascoltare una trasmissione dove dicono solo parolacce? Cruciale, vaffanculo, stronzo e cruciale. Una vita per il cinema. Una vita per l'amore. Io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamolo com'è. La patonza deve girare.